coraggio che ci infondono oggi le parole di Alessandro, così come ce le infondevano quelle che Orso ci mandava dal fronte. C'è oggi qui la mamma di Jacopo, la mamma di Eddie, le mamme di altri internazionalisti che hanno fatto la scelta stessa di Orso e che oggi sono qui a manifestare con noi, che volevano portare anche loro un messaggio di saluto, un messaggio di vicinanza ai genitori, alla famiglia di Orso e a tutti coloro che gli volevano bene. Non andrò a braccio perché l'emozione tradirebbe i miei contenuti. Leggerò queste parole che sono una testimonianza di solidarietà e di vicinanza con la famiglia di Lorenzo. Lorenzo ci ha lasciati, un nemico crudele, spietato, una guerra feroce ci ha portato via Lorenzo. Lorenzo, qui nella sua Firenze, nella sua Italia, non trovava più stimoli, schiacciato da meccanismi di arrivismo, individualismo, indifferenza, disprezzo. Pur tra mille difficoltà, tra gli orrori della guerra, con il popolo curdo che generosamente lo ha accolto, ha potuto consolidare quegli stimoli, quei valori e ideali che lo hanno reso un uomo felice e fiero di essere parte di una rivoluzione unica nel suo genere, una rivoluzione che ha molto da insegnare anche a noi. Mio figlio Jacopo, per un breve periodo, ha conosciuto Lorenzo ad Afrin, mentre i turchi stavano portando avanti l'ultimo attacco con la conseguente evacuazione della città. Sono certa che Lorenzo sia stato per mio figlio un incontro importante. Lorenzo in quel tragico momento ha saputo trovare gesti, parole, dare conforto, trasmettere coraggio che hanno aiutato Jacopo a superare le difficoltà in un contesto a lui non certo abituale. Lorenzo ha coltivato, arricchito e messo a disposizione degli altri quei buoni sentimenti che voi genitori eccezionali gli avete donato con il vostro esempio, con il vostro grande amore per lui. Grazie Lorenzo. Grazie anche a voi, mamma Annalisa e babbo Alessandro, che con il vostro grande amore avete sempre sostenuto e compreso le scelte di vostro figlio e ne siete fieri. Le nostre storie hanno in comune notti insonni, passate a farci mille domande, giorni lunghi trascorsi nella speranza di ricevere un messaggio, una telefonata. Ci bastava poco sentire la voce per cercare di capire se tutto andava bene, se era felice. Sentire «Ciao mamma, come stai?» Giorni lunghi, pieni di paura, di attesa, che sembrano non finire mai. È difficile trattenere le lacrime ripensando a quei giorni e pensando a voi. Ora non mi resta che fare nostro il senso di questo sacrificio, di essere la luce di questi momenti bui, quella singola goccia che genera la tempesta, quella tempesta d'amore che potrà cambiare il mondo. Vi abbraccio a nome mio e delle mamme per la libertà di dissenso.